Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Inizieremo parlando subito come aggiornamento dei mercati, molto bene oggi le borse europee, anche se stanno leggermente ritracciando, comunque più 1,80% Milano, più 1,5% Parigi, più 1% Francoforte e più 0,80% Londra. L'America adesso sta scendendo sulla parità, più 0,1%, l'euro a quota 1,3640. I titoli, molto forte oggi Mediaset, più 4,8%, Finmeccanica più 4,6%, Intesa più 4,2%, Stima Cretonis più 4,1%, Fiat più 3,9%, Exor più 3%, Prismian più 2,94%, Banco Popolare più 2,6% come la Popolare Milano, il 2,2% lo guadagna Mondadori, il 2% Unicredit, l'1,80% Autogrill e anche Pirelli e Bulgari e Unipol. Chiudiamo con Generali più 1,7%, Mediobanca più 1,4%, Monte dei Paschi più 1,3% come Enel e Italcementi. L'1,1% lo guadagna Saipem, ma anche CIR e Buzzi Unicem. Chi perde oggi? Fondiaria meno 0,94%, Mediolanum meno 0,40%. Parleremo degli incentivi auto, l'intervento del ministro Scajola in Parlamento e anche le polemiche, il dibattito, la sospensione dei lavori parlamentari. Parleremo di Grecia, perché oggi insomma si segnalano parecchie proteste in Germania sull'ipotesi che, insomma, che Germania e Francia salvino a questo punto la Grecia, però si è aperto anche a livello europeo un dibattito sulla correttezza o meno nell'aver salvato la Grecia, che ripeto non ha avuto un problema di conti pubblici in senso stretto, ha truccato i conti, quindi ha continuato a aumentare il proprio deficit, ma diceva di averne un altro, ha aumentato gli stipendi agli statali, ha fatto tutto un insieme di operazioni che hanno portato il deficit al 13%, ma ne raccontava di averlo al 3,9%. Alcuni dicono, attenzione, in questo modo se la salviamo di fatto si dà la possibilità a altri paesi di fare lo stesso, tanto si dà la garanzia dell'impunità, mettiamola così. Lo ha scritto per esempio sulle colonne del Sole 24 Ore Roberto Perotti e sarà uno dei nostri ospiti in apertura, così come sentiremo questa dichiarazione del premio Nobel all'economia del 99 Robert Mundell, il padre dell'euro, che ha detto attenzione, il vero rischio per l'euro non è la Grecia ma è l'Italia. Dopo i mercati finanziari, dopo la vicenda incentivi auto, ci occuperemo, lo avete già ascoltato dai nostri GR, dell'emergenza corruzione. Oggi infatti alla cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario la Corte dei Conti ha dato delle cifre impressionanti, più 230% le denunce di corruzione, non ci sono anticorpi nel sistema, un incremento dei fatti di concussione del 153%. Anche qui uno potrebbe dire che se sono aumentati del 230% le denunce alla Guardia di Finanza, magari è perché appunto c'è più gente che prende coraggio, o altri sostengono che invece sia proprio la crisi economica a avere prodotto un po' sulla falsariga di quanto avvenne allo scoppio di Tangentopoli ad avere spinto gli imprenditori a denunciare corruzione e soprattutto la concussione. Ne parleremo appunto alle 18.15, 349-238-6666 per i vostri sms e adesso rapidamente le altre notizie in breve. Allora, iniziamo come sempre dal petrolio, che ha aperto sopra i $77 il barile, forte, abbastanza forte il petrolio in questi giorni, intravede di nuovo quota $80. Ancora la Toyota, un incubo la vicenda Toyota, perché sta valutando eventuali problemi a questo punto al servosterzo anche della Corolla, che è l'auto più venduta al mondo, e sta ipotizzando, lo ha detto il vicepresidente del gruppo che si chiama Shinichi Sasaki, ha detto stiamo ipotizzando un nuovo maxi richiamo. Economia internazionale ed europea, bene i conti del colosso bancario francese BNP Paribas, quarto trimestre a 1 miliardo e 370 milioni l'utile e quindi un utile superiore a tutte le attese, che erano intorno al miliardo. L'anno prima, quindi il quarto trimestre del 2008, la banca aveva chiuso con una perdita di 1,37 miliardi. E però, a differenza di quanto ha fatto ieri Barclays, che ha levato tutti i bonus per i top manager, BNP Paribas distribuirà 500 milioni di bonus ai manager per il 2009, ai suoi 4.000 trader. Chissà cosa ne pensa Sarkozy, che della battaglia contro le banche, i bonus, ha dato ampia eco quando era in Europa. Andiamo avanti, economia internazionale. La produzione industriale a gennaio in America aumenta dello 0,9%, un dato buono, superiore alle attese degli economisti, e anche la capacità di utilizzazione degli impianti in America è salita di quasi un punto percentuale. Tant'è che Barack Obama oggi ha detto: il piano di stimolo non è stato una decisione politica facile da prendere, ma abbiamo in questo modo evitato la catastrofe. A questo punto, grazie a questo piano di stimolo, una nuova depressione tipo 29, una nuova crisi del 29, la grande depressione, non è più una possibilità. Questo nel giorno in cui il maxi piano di stimolo da 790 miliardi di dollari compie esattamente un anno. E Barack Obama ha anche aggiunto: senza quel piano vi sarebbero 2 milioni di disoccupati in più in America. Comunque l'economia nel quarto trimestre, là dove l'Italia è rimasta ferma, anzi ha segnato un meno 0,2 che nessuno si aspettava. In realtà, a livello dei paesi occidentali, il quarto trimestre è stato un buon trimestre. Questo, diciamo, non ci permette nemmeno di poter dire mal comune mezzo gaudio. Più 0,8% il PIL dell'area OCSE, e a volare sono soprattutto gli Stati Uniti e il Giappone, che ha fatto più 1,1%. Nei paesi dell'area euro, l'Italia, oltre alla Spagna, ha visto invece un calo appunto dello 0,2%. La Banca d'Italia inizia a contare i soldi rientrati dallo scudo, 85 miliardi di euro fino adesso, di cui 60 miliardi dalla sola Svizzera. Poi segue il Lussemburgo, 7 miliardi e 3, il Principato di Monaco, 4 miliardi e 1. La differenza con i dati diffusi dal Ministero dell'Economia, cioè 10 miliardi circa, sono diverse fonti utilizzate e anche l'esclusione di alcuni beni patrimoniali. Allora, la vicenda incentivi auto, e quindi il primo tema trattiamo, e la dura risposta oggi del ministro allo sviluppo economico Claudio Scajola, proprio una risposta data al Senato. Allora, ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola va al Senato a spiegare che, come già annunciato, gli incentivi auto non verranno più dati e bisogna ridefinire le politiche pubbliche di sostegno, e dice di avere praticamente anche investitori internazionali pronti per Termini Imerese. Sentiamo questo passaggio sull'annuncio, appunto, che gli incentivi all'auto non vi saranno più. È necessario ridefinire anche le politiche pubbliche di sostegno, abbandonando logiche di intervento contrastanti con le nuove realtà del mercato e assicurando il più efficiente utilizzo delle limitate risorse pubbliche disponibili. In questa direzione, tutti i grandi paesi europei stanno attuando una strategia di uscita dagli incentivi all'auto. Gli incentivi, per loro natura eccezionali e quindi temporanei, non possono divenire regola. Il governo ha ritenuto che anche in Italia sia giunto il momento di tornare alla normalità del mercato dell'auto, non rinnovando gli incentivi e intensificando invece il sostegno alla ricerca e alla innovazione di prodotto. E poi sempre il ministro Scajola ha detto che le proposte per Termini Imerese sono 14, che si farà una shortlist, che verranno privilegiati i progetti legati all'automotive, alle quattro ruote, e che l'invito è stato rivolto anche a vari soggetti internazionali. E poi Scajola ha aggiunto: sono a disposizione 450 milioni di finanziamenti statali e regionali per migliorare le infrastrutture e sostenere la ristrutturazione del polo produttivo. Ma a un certo momento è scoppiata una bagarre al Senato, perché che cosa è successo? Sostanzialmente il senatore siciliano del PD Costantino Garaffa ha accusato il ministro di dire bugie sulla situazione della Fiat a Termini e sulle iniziative del governo, e lì è stata addirittura sospesa la seduta. Sentiamo. Per ampliare ulteriormente la gamma delle possibili soluzioni, stiamo valutando poi la possibilità di rivolgere un invito internazionale a tutti i soggetti potenzialmente interessati al rilancio industriale dell'area, sottolineando che sono a disposizione 450 milioni di finanziamenti statali e regionali per migliorare le infrastrutture e sostenere, senatore Garraffa, ce ne sono. Deve smettere. Senatore Garraffa, ma lei cosa pretende? Che il ministro dica quello che pensa lei? E allora quando interverrà lei spiegherà le sue ragioni. La deve smettere di fare l'urlatore di professione. Senta. Ma lasci esprimere a ciascuno il suo pensiero. Ma basta, ma basta. Allora, senatore Garraffa, lei ha parlato, Presidente, mi scusi, Presidente, signor Ministro. Presidente, lei non può permettere che un senatore dica che dico bugie! Non si può permettere lei! Lei non se lo può permettere! Lei è un maleducato e un bugiardo! Ci sono 100 milioni dello Stato e 350 milioni della Regione Sicilia! E si vergogni! Senatore Garraffa, mi scusi. Guardi, senatore Garraffa, io credo di essere stato abbastanza tollerante nei... Ma la smettete, basta! Vabbè. La seduta è sospesa. La seduta è sospesa per 10 minuti. Alla fine del mondo. E allora, questa è la contestazione. Caraffa diceva che non c'erano i soldi della regione e non erano così i soldi dello Stato. Scajola gli ha ribattuto: no, sono 150 milioni della regione, 300 milioni di finanziamenti statali. Ma degli incentivi abbiamo parlato anche con un banchiere, o meglio, chi è appena diventato il direttore generale di Banca Intesa. Mi riferisco a Gaetano Amici, che è neo direttore generale del gruppo Intesa San Paolo e responsabile della divisione corporate, cioè di tutte le aziende più grosse, per sapere, visto che le banche attivamente poi danno i soldi, dovrebbero dare i soldi alle piccole, medie, ma anche alle grandi imprese, che cosa ne pensa dell'idea che, insomma, gli incentivi non debbano esserci in alcuni settori. La Fiat è un'azienda che vende in Europa, che vende negli Stati Uniti d'America, che vende in Brasile, che vende in Asia, e quindi la logica di guardare dove è possibile produrre a condizioni più competitive è un dovere di un amministratore delegato, perché lo fanno anche gli altri. Se non lo facesse lui sarebbe spazzato via dalla concorrenza. Per quanto riguarda gli incentivi, io sono sempre per logiche di mercato, quindi preferirei sempre che le aziende andassero avanti con le proprie gambe in funzione proprio delle performance aziendali che realizzano, però ove questo avvenisse in tutti i paesi del mondo. Noi non ci possiamo permettere concorrenze non omogenee. Allora, se altri grandi operatori industriali dell'auto e non beneficiano in determinati momenti storici di crisi, di peggioramento dei consumi mondiali, di aiuti governativi, io credo che anche le nostre aziende, ripeto, non solo dell'auto ma di altri settori, hanno diritto almeno a discuterli in modo da poter, ripeto, competere ad armi pari. E vi anticipo che l'intera intervista è un'intervista lunga, articolata, in cui si parla del rapporto banche-imprese, del rapporto delle fusioni, operazioni varie, sul tappeto e anche della Fiat. Dicevo all'interno dell'intervista a Gaetano Amici che la ascolteremo domani, sempre chiaramente durante Focus Economia. Adesso ci fermiamo con Termini, con gli incentivi auto, perché il secondo tema che avevo annunciato riguarda la Grecia e quindi il piano della Grecia. Ormai si è capito, il paese è più o meno commissariato, non formalmente, ma insomma la Germania e la Francia hanno deciso di salvare la Grecia, hanno deciso di farlo sostanzialmente tirando fuori un'ottantina di miliardi, ma va anche detto che la Francia è esposta per 80 miliardi e la Germania per 35 miliardi come prestiti forniti al governo greco, quindi sottoscrizione del debito greco. Il piano vero e proprio, dopo l'emissione di obbligazioni greche per 8 miliardi a fine dicembre 2009, un tasso al 6%, il piano di austerità prevede il congelamento di tutti i salari pubblici per il 2010, anche quelli sotto i 2.000 euro, il blocco di tutte le assunzioni pubbliche per il 2010, la riduzione del 10% delle spese di tutti i ministeri, l'aumento dell'età pensionabile, nuove tasse sui carburanti, tasse sui dividendi azionari. In sostanza deve arrivare a tagliare il deficit di 4 punti solo nel 2010 per poi arrivare al 3% entro il 2012. La Grecia, che ha truccato i conti, ha detto che va al deficit al 3,9, si è scoperto che c'aveva al 13%. Ma il tema a questo punto è anche un altro: è stato corretto o meno salvare la Grecia. E allora, Grecia, salvarla sì o no, al di là dei dubbi dei tedeschi, oggi presenti su molti quotidiani, che temono di dover pagare poi fiscalmente come tasse il salvataggio della Grecia, il tema in realtà non è solo di dibattito politico, ma anche eminentemente economico. In qualche modo ricorda il dibattito, se vogliamo, tra intervento dello Stato e invece lasciare che il mercato compia il suo corso. Se volete, ricorda il dibattito, anche nel caso italiano, quando una regione sfora i tetti di bilancio. Pensiamo alla sanità, le 3-4 regioni del sud che hanno sforato ogni tetto previsto dalla sanità, e si dice non si può ogni volta ripianare un debito che si è creato con una cattiva amministrazione, deve pagare la regione. Questo va anche nell'ottica di un federalismo fiscale, infatti in questo caso sulla sanità la regione è obbligata a aumentare l'IRAP. Ecco, con i dovuti distinguo, a nostro avviso il tema che si pone in questo momento è proprio questo, cioè è giusto, è necessario, è assolutamente un motivo di sopravvivenza salvare la Grecia, che ha allegramente speso i soldi, ha aumentato gli stipendi della pubblica amministrazione recentemente, ha truccato i conti, o è giusto che in un mercato anche la Grecia possa, tra virgolette, fallire? Contrario al fallimento, contrario a un appoggio, a un aiuto, a un soccorso della Grecia, è stato sul Sole 24 Ore Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. E invece a favore del commissariamento, diciamo, della Grecia, di fatto, un altro economista, mi riferisco a Alberto Quadrocurzio, che insegna economia politica alla Cattolica di Milano ed è preside della Facoltà di Scienze Politiche. Buonasera, professore, anche a lei. Buonasera. In un suo articolo sul Corriere della Sera di inizio febbraio, per la precisione, lei già scrisse: meglio commissariare la Grecia in crisi. Allora, professor Perotti, perché non è secondo lei una tragedia, non sarebbe stata a questo punto una tragedia far fallire la Grecia? Ho visto che fa anche un calcolo economico su questo, prego. Beh, ci sono due aspetti. Uno è la Grecia è il 2,5% del PIL dell'Unione, quindi se c'è una situazione in cui si deve usare il bastone invece della carota è questo, perché i rischi sono bassi in quanto la Grecia è una parte minima dell'Unione. Perché si deve usare il bastone invece della carota? Ogni tanto bisogna farlo, perché si usa sempre la carota, poi ovviamente, dico una banalità, ma poi qualsiasi paese sa che verrà salvato al momento buono. Non bisogna dimenticare che se c'è un paese che ha fatto harakiri volontariamente è la Grecia, è arrivata al 13% del disavanzo pubblico sul PIL con una finanza pubblica che da 15 anni è essenzialmente giocare alla roulette russa con l'economia del proprio paese. Questo hanno fatto i politici con il concorso dei sindacati e della popolazione. Quindi io capisco tutti gli aspetti economici, capisco tutti i rischi, se non si salva il paese, i rischi di una reazione a catena sul Portogallo, poi l'Irlanda, poi la Spagna. Secondo me questi rischi sono sovrastimati, ripeto, perché la Grecia è una parte minima dell'Unione, ma anche con questi rischi, secondo me, ogni tanto il bastone bisogna usarlo e questa è l'occasione perfetta per usare il bastone. Professor Perotti, non sfugge però che è vero che noi abbiamo 8 miliardi di obbligazioni greche, ma la Germania ne ha 80, la Francia una cifra quasi analoga, o comunque 50 miliardi. Ora si tratterebbe di vedere fallite in questo caso anche le obbligazioni greche, i titoli di Stato, cioè un modello argentino. Sì, ma queste sono obbligazioni pubbliche e private, non stiamo parlando solo del debito pubblico. Quando si parla, se dovesse succedere una parziale default sul debito pubblico, cosa che non è ovvia, ma se dovesse succedere, non implica che il debito pubblico va a zero, implica che ci sarà un taglio del 10-20%. Il debito pubblico greco è circa 220 miliardi di euro, stiamo parlando di 30-40 miliardi, che per il sistema finanziario europeo è più che accettabile. D'altronde non si può sempre salvare tutte e tutti. L'altra obiezione che viene fatta però è: attenzione, c'è un rischio sistemico, se si fa fallire la Grecia si rischia una vicenda come Lehman Brothers nel settore statale a questo punto, cioè fatta fallire Lehman si dà il messaggio che tutti potevano saltare per aria e si accelerò, o meglio si aumentò l'intensità della crisi finanziaria. Anche in questo caso c'è chi teme che se si fosse fatta o se si facesse fallire la Grecia, a quel punto vi sarebbero pressioni enormi sull'euro e si andrebbe a giocare, gli speculatori giocherebbero su qual è il prossimo stato che potrebbe saltare, quindi Spagna, Portogallo, insomma una perturbazione di carattere sistemico sull'economia e le finanze dell'area euro. Io sono tra quelli che ritiene che aver fatto fallire Lehman sia stata una cosa giusta e credo ci siano molte persone che almeno privatamente ormai lo ammettono, perché anche in questo caso non si poteva salvare tutte le istituzioni finanziarie americane. Infatti c'è stata la crisi, ma insomma, è stata riassorbita in campo finanziario. Per quanto riguarda i riflessi sistemici sull'area euro, non è ovvio che l'eurozona si debba indebolire, anzi c'è una possibilità che si rafforzi, perché si sta dimostrando che l'eurozona è in grado di fare sul serio, di far rispettare i patti, di eliminare le sue componenti più deboli. E secondo me non a caso la maggior parte dei tedeschi è a favore di escludere la Grecia dall'eurozona, ma non di far fallire l'euro. Vogliono mantenere l'euro, ma eliminando la Grecia. Non dimentichiamo che quando è stato fatto l'euro, il trattato di Maastricht, è stato fatto essenzialmente il limite del 60% del debito sul PIL è stato fatto essenzialmente per lasciare fuori la Grecia, e di questo volevano i tedeschi. Ci sono riusciti per qualche anno, poi alla fine la Grecia è entrata. Però non è ovvio che se la Grecia va a uscire dall'euro, l'euro si debba indebolire. E anche se si indebolisse, se si svalutasse un po', pazienza. Sì, lei dice non è ovvio, in realtà quello che abbiamo visto sui mercati è proprio questo, un movimento speculativo contro la Spagna, il Portogallo e contro l'euro, immaginando che sarebbero stati i prossimi mercati dopo la Grecia. Comunque ho capito, prego, però. Sì, però mi permette di dire che se uno speculatore che attacchi la Spagna, qui sembra che speculare sia facile, ma per attaccare la Spagna i rischi di bruciarsi sono enormi, perché la Spagna non sono nocciolini, non è tanto ovvio che sia una cosa da fare di speculare contro la Spagna. Professor Quadricurzio, vorrei sapere cosa ne pensa, o meglio, perché lei ritiene invece che sia stato un bene di fatto quasi commissariare la Grecia, perché insomma ho capito che il nuovo governo non vuole aiuti, però insomma l'asse franco-tedesco servirà appunto a tranquillizzare la Grecia. Perché ritiene che sia stato un bene e perché non ritiene che invece in questo modo, come diceva poco fa Roberto Perotti, si rischi di creare un precedente pericoloso, perché allora qualunque Stato può dire: beh, se hanno salvato la Grecia, figurati se non salvano me, se mi chiamo Spagna o Portogallo oppure Italia addirittura. Ma è chiaro che la valutazione ex ante non può essere certa, perché solo i fatti dimostrano le affermazioni antecedenti ai fatti medesimi. Ma detto questo, io ritengo che la Grecia non tanto debba essere salvata, quanto debba essere mantenuta l'unità di Eurolandia, punendo la Grecia per varie tipologie di frodi che essa stessa ha commesso, ivi compresa quella di passare nel giro di pochi mesi da poco più del 7% di deficit su PIL al 13%. Detto questo, io temo che anche se la Grecia è un paese periferico, un paese con un debito pubblico che non pesa neanche il 4% su quello di Eurolandia, che 50 miliardi di euro siano pochi e tutto questo, io temo che se l'euro perde una sua componente, il meccanismo di sgretolamento diventa incontrollabile. Detto ciò, ritengo anche che la Grecia vada adeguatamente punita per quello che ha fatto e infatti io, come altri, ho proposto un commissariamento che a mio avviso tra l'altro è anche possibile, fermo restando che tocca ai giuristi poi valutare se a termini di trattati lo sia, io credo che sia anche possibile, ivi compreso commissariamento anche quello di penalizzare la Grecia nel contesto degli organismi comunitari, dove io non credo che un paese che ha queste condizioni meriti di essere rappresentato, per esempio nella Commissione. Quindi credo che questa valutazione certamente non è dimostrabile e tuttavia è una preoccupazione che io ritengo sia fondata. Il salvataggio, chiamiamolo così, della Grecia, posto in essere poi da due singoli paesi, anche questo non mi soddisfa, perché a mio avviso bisognerebbe allargare la capacità di intervento della Unione in quanto tale, attraverso forme che possono essere più varie, un aumento del bilancio comunitario, l'emissione di titoli di debito pubblico comunitario e via discorrendo, piuttosto che affidare il salvataggio a un'operazione intergovernativa come peraltro si sta oggi pensando, perché credo che questo non sia in linea con la logica stessa dell'euro, essendo l'euro una valuta comunitaria e non un paniere di valute caratterizzato dalla tipologia di intergovernatività. Quindi salvataggio della Grecia non attraverso due paesi che la fanno da padrone, ma attraverso un'iniziativa di tutta l'Europa da un lato, dall'altro però il bastone, cioè punire, commissariare la Grecia e impedirle di esercitare il suo ruolo di paese membro a livello di Commissione Europea, di Presidente di Commissione, di quant'altro. Torneremo su questo anche perché, come dicevo, oggi invece in un'intervista alla Bloomberg Television Robert Mundell, creatore dell'euro, premio Nobel dell'economia, ha detto il vero problema per l'euro non si chiama Grecia ma si chiama Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di Grecia ma anche di borsa, perché stiamo ragionando con Roberto Perotti e con Alberto Quadricurzio di due idee diverse. Secondo l'economista Roberto Perotti la Grecia doveva essere lasciata tra virgolette fallire, non aiutata. Secondo l'economista Quadricurzio invece andava salvata ma punita, e va salvata ma punita, e quindi commissariata e anche levata da ogni carica a livello europeo. Due diverse visioni. Vorrei, siccome l'argomento è molto interessante, vedo anche molte email che chiedono e molti sms chiedono ma cosa vorrebbe dire far fallire la Grecia. Beh, ricordate l'Argentina, è la stessa cosa, ci sono 80 miliardi di obbligazioni greche in mano alla Francia, 35 in mano alla Germania, e complessivamente sono circa 200 miliardi di obbligazioni in giro. Però vorrei fare i mercati, perché hanno chiuso bene anche se non sui massimi. L'America adesso è invariata, Parigi più 1,5%, Francoforte più 1%, Londra più 0,6%, quindi chiedo un po' di pazienza a Roberto Perotti e Alberto Quadricurzio. Milano tra le migliori più 1,70%, grazie a Mediaset più 4,7%, Fiat più 4,6%, Finmeccanica più 4,5%, Stima Microelectronics più 4,4%, Intesa San Paolo più 4,2%, Exor più 3,4%, Prismian più 2,80%, Popolare Milano più 2,60%, come il Banco Popolare, il 2,5% lo guadagna Bulgari e Mondadori, il 2,2% Pirelli ma anche Autogrill, il 2% è rialzo di Unicredit e Unipol, l'1,6% è il guadagno di Generali, l'1,3% quello di Tacimenti, Enel e il Monte dei Paschi, l'1,1% quello di CIR e Saipem. Fronte opposto, Fondiaria ha perso lo 0,80%, Mediolanum lo 0,3%. Concentriamoci solo sui titoli che hanno guadagnato. Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Mediaset, direi Finmeccanica, visti rialzi, Fiat e anche Intesa. Per quanto riguarda Mediaset, secondo quanto riferiscono i trader, certamente oggi un ottimo rimbalzo che è un po' figlio di posizioni di scoperto sul titolo, oggi ha contribuito anche un'indicazione di una casa d'affari, ma anche le parole dell'amministratore delegato di Prisa con cui Mediaset attraverso Telesinco ha messo a punto a dicembre l'operazione sul canale, sì. Sul canale sì, 4, sì. Quindi questo ha portato un'attenzione generale sui quindi titoli. Rotazione sul titolo per quello che riguarda Mediaset e anche appunto le dichiarazioni del numero di Prisa. Andiamo rapidi perché purtroppo siamo molto stretti con i tempi, Andrea. Fiat, Finmeccanica, Intesa. Sì, per quanto riguarda Fiat, un altro bel rimbalzo che ha portato il titolo oltre quota 8 euro, ricordiamo nell'ultimo mese aveva perso quasi il 27%, hanno pesato anche le parole di Scaiola, secondo cui Fiat concentrerà sull'Italia 2/3 degli 8 miliardi di investimenti previsti per il prossimo biennio. Il recupero invece di Finmeccanica più 4,5% è figlio soprattutto dell'attesa di una importante commessa da quasi 600 milioni di euro con la difesa indiana. Per quanto riguarda invece ST Microelectronics, ha sfruttato la scia degli altri tecnologici in Europa, oggi molto bene Infineon e Nokia, e questo ha avuto effetti positivi su ST Microelectronics. Per quanto riguarda invece Intesa San Paolo, più 4,2% è stata la migliore dei bancari, oggi il settore trascinato dai risultati di BNP Paribas in Francia, ma per quanto riguarda Intesa si attende la formalizzazione dello scioglimento dell'accordo tra Generali e Credit Agricole, l'accordo parasociale tra i due azionisti di Intesa San Paolo. Ancora sui titoli di Finmeccanica che abbiamo detto, Intesa l'abbiamo detto, l'ultimo tema che vorrei toccare è ST Microelectronics. Sì, ST Microelectronics ha sfruttato un buon andamento dell'intero comparto tecnologico, ricordavo prima oggi un'ottima performance di Infineon in Germania e anche di Nokia ad Helsinki, entrambi promossi dalle case d'affari, si è tornato a ricoprire sul settore tecnologico, ST ne ha beneficiato immediatamente, ha chiuso più 4,4% salendo a 6,17 euro per azione. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Diciamo, i titoli diciamo, che più hanno perso non li commentiamo, Fondiaria meno 0,80, Mediolanum meno 0,3%, non è grande cosa. Prima delle informazioni sul traffico, i migliori in assoluto, House Building più 19%, Mondo Home Entertainment più 18%, Terni più 13%, Terni Energie più 13 e poi Meridie più 10%, Pramac più 8,60, Total più 6,90, il peggiore RDB meno 3,85, poco altro, Stefanel meno 3,5, Mittel meno 3,3, Poligrafica San Faustino meno 3%, il 2,90 l'ho perso anche Safilo Group. 349-238-6666 per i vostri sms, il traffico, e poi torniamo a ragionare della Grecia, dei casi greci, delle lezioni che si stanno apprendendo o dei rischi che si sono corsi. Allora, chiusa la parentesi di borsa, oggi con i temi che abbiamo raccontato, torniamo al tema della Grecia, che ci interessa particolarmente non solo per le proteste in Germania, per l'asse, perché la Germania si sobbarcherà parte di questo piano di salvataggio, ma perché appunto ci interessa capire se, come nel caso di Lehman Brothers, sia stato un male farla fallire, o come dicono altri, come ci ha appena ricordato il professor Perotti, è stato un bene perché ha dato un segnale importante, anche se ha creato un po' di tensione. Professor Claudio Curzi, lei diceva in sostanza, è giusto commissariarla, è giusto salvarla, ma commissariandola e punendola, colpendola anche a costo di fare saltare le cariche della Grecia all'interno della Commissione Europea. Ma lei si immagini la Spagna, laddove si configurasse un caso spagnolo, anch'io credo molto difficile che si configuri, ma supponiamo che si configuri, lei si immagina togliere alla Spagna tutte le posizioni apicali negli organi comunitari, Che cosa sarebbe per un paese come quello? Sarebbe una punizione anche di prestigio gigantesca. Ebbene, io credo che anche queste punizioni di prestigio debbano essere in qualche modo esaminate, considerate quando un paese commette. In altre parole, anche in Italia si giunge al commissariamento di enti pubblici che non sono in grado di autogestirsi. Ebbene, si faccia lo stesso anche per questo. Sì, perché ricordo agli ascoltatori che scrivono al 349-238-6666 che qui non stiamo parlando di un paese che ha avuto un problema di gestione dei conti pubblici per cui improvvisamente il deficit è schizzato al 13%. Qui stiamo parlando di un paese che ha truccato i conti, cioè che ha detto il nostro deficit è al 3.9, se non ricordo male, 3.8, e poi si è scoperto che era al 12.8, 12.9, insomma al 13%. Quindi c'è una cosa un po' diversa da un paese che ha un improvviso disastro o fallimento nella gestione dei conti pubblici. Qui si sono truccati i conti sapendo di truccarli e per poi poter continuare a imbarcare. Dottor Barisoni, posso fare una domanda? È circolata anche notizia su vari quotidiani, io non l'ho approfondita, che qualche grande banca internazionale abbia essa stessa qualche Goldman responsabilità. Goldman Sachs, non sono in grado di riferire meglio. Lo dico io perché abbiamo fatto una puntata su questo due giorni fa. Goldman Sachs ha guadagnato 300 milioni di euro come consulenza col governo greco nello spiegare come cartolarizzare, come usare i derivati, insomma, come abbellire o imbellettare il deficit. E poi magari la stessa Goldman Sachs che specula, lo dico senza nessuna cognizione di causa, però su un'eventuale uscita dalla Grecia, che è un po' come se uno ti spacca il vetro della macchina col sasso e poi ti lascia un biglietto, vieni dal mio carrozziere. Comunque, professor Perotti, la convince un'idea di dare una punizione così dura che poi insomma rappresenta un elemento di dissuasione per qualunque altro paese volesse tentare di fare il furbo? Sì, è certo che non ho sentito la punizione che otterrebbe questo risultato. Secondo me escludere dalle cariche comunitarie i greci è acqua calda, cioè non serve assolutamente niente. Stiamo parlando di dover ridurre il disavanzo di circa il 10% del PIL togliere magari due commissari e qualche altra carica. Non c'è paragone, non vedo come... Sì, se ho ben capito il ragionamento del professor Quadrocurti, dice però su altri paesi, attenzione, che per la Spagna o per altri paesi sarebbe uno schiaffo imperdonabile. E tra l'altro, visto che lo citava il professor Quadrocurti, anche l'Italia ha ricevuto... aiuti da JP Morgan tra il 2003 e il 2006, i derivati comunque hanno i derivati diciamo suggeriti dai vari istituti, JP Morgan in primo luogo, hanno portato nelle casse dello Stato 4 miliardi e 4, cioè l'Italia ci ha guadagnato con questi strumenti, attenzione, perché erano derivati che lavoravano sul cambio valuta a un tasso favorevole e portando effettivamente 4 miliardi e 4 di guadagno. Questo lo dico a chi scrive anche l'Italia si è fatta aiutare a truccare i conti, no, mica tanto, noi ci abbiamo guadagnato 4 miliardi e 4 con i derivati di JP Morgan. Però restiamo sul tema dell'Italia, perché come vi avevo annunciato l'ultimo tema che vorrei toccare con Roberto Perotti e Alberto Quadrocurti è questa frase che ci ha lasciato un po' perplessi, ci ha fatto saltare sulla sedia oggi, del padre dell'euro, nonché Nobel all'economia nel 1999, Robert Mundell, il quale oggi a Bloomberg Television ha detto: attenzione, il problema dell'euro non è la Grecia, è il debito italiano. Penso che sarebbe molto difficile soccorrere l'Italia. Credo che si debba essere sicuri che tutto ciò che viene fatto, qualsiasi misura venga adottata nei confronti della Grecia e forse anche di Portogallo e Irlanda, venga presa anche per salvare l'Italia. Credo che l'Italia debba essere preoccupata. Per ciò che riguarda il rapporto euro-dollaro, penso che non si debba mai, nei prossimi 10 anni, lasciare che la moneta unica superi il valore di 1,40 dollari. For the next 10 years, rise above $1.40. Insomma, ci ha lasciato un po' perplessi questa cosa, perché insomma, va bene tutto, è vero che abbiamo il debito più alto a livello europeo, metà del debito europeo è nostro, ma insomma abbiamo avuto il deficit assolutamente che è cresciuto meno della media, sicuramente non come in Germania e in altri paesi, e, insomma non abbiamo visto queste grosse tensioni sulle obbligazioni italiane. Dopo il GR vorrei concludere questo approfondimento sapendo che cosa ne pensano appunto i nostri due ospiti di questo tema, cioè se l'Italia, come dice Mandel, è il vero paese, è il vero rischio per l'euro. Poi Parleremo di corruzione, oggi bilancio della Corte dei Conti, aumentate la corruzione del oltre il 200%, la concussione del 140%, le denunce, e chiederemo a Piercamillo Davigo se non sia anche questo un effetto della crisi, un po' come avvenne ai tempi di Mani Pulite, cioè gli imprenditori strangolati da una difficoltà economica non riuscivano più a reggere, mettiamola così, il colpo delle tangenti. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sul, a questo punto, sull'allarme lanciato sul debito italiano da, del premio Nobel Robert Mundell, e poi parlare di corruzione, una notizia però che l'agenzia non ha appena battuto come d'attesa. Comunque, assicurazioni generali, le generali hanno reso noto che nella serata di ieri, a questo punto il comunicato è ufficiale, le generali hanno perfezionato la risoluzione consensuale con Crédit Agricole, quindi patto, sciolto il patto tra generali e Crédit Agricole, con effetto dal 19 marzo, questo quindi dell'accordo di consultazione relativa a Intesa San Paolo sottoscritto lo scorso 25 giugno. La nota è delle generali, sciolto il ufficialmente il patto tra generali e Agricole. Professor Quadricurzio, torniamo alla dichiarazione di Mundell. Ci ha lasciato perplesso dire, l'agenzia recitava, l'Italia è una minaccia all'euro più della Grecia, perché nonostante noi si abbia il debito più alto dell'Europa, metà del debito europeo, abbiamo fatto un 5% di deficit, non abbiamo fatto peggio di altri, non è cresciuto più di altri, è cresciuto molto più in Germania e in altri paesi. È un allarme accademico secondo lei? Guardi, volevo fare una piccola precisazione sulla Grecia. Ben inteso che la Grecia, al di là di perdere o non perdere i commissari, deve essere commissariata, il che significa che va poi posta in essere, certo, una politica di bilancio durissima. Mancherebbe altro che bastasse rimuovere un commissario ed essere soddisfatti. Tutto ciò non avrebbe alcun senso. Circa le dichiarazioni di Mundell, pur con il massimo rispetto verso un premio Nobel così autorevole, io non sono così pessimista, perché, come diceva lei prima, è ben vero che il debito pubblico italiano è alto, ma è altrettanto vero che è cresciuto meno di quasi tutti i debiti pubblici degli altri paesi europei. Ed è anche vero che se gli spread sui titoli di Stato decennali dicono qualcosa, oggi lo spread non è preoccupante rispetto al Bund tedesco. Non siamo ai 4 punti percentuali della Grecia, siamo largamente sotto un punto, e quindi credo che sia una situazione accettabile. Spero che le riflessioni di Mundell siano sbagliate, naturalmente solo i fatti dimostrano gli assunti. Sì, di nuovo però insomma anche queste dichiarazioni. Professor Perotti, veramente sullo sfondo c'è sempre questo timore per l'Italia, sappiamo che l'Italia, insomma i tedeschi, la Bundesbank, inutile nascondersi dietro un dito, premeva a suo tempo perché l'Italia non entrasse nell'euro, le scommesse erano tutte in quella direzione, e poi invece all'allora Presidente del Consiglio, che era Romano Prodi, con una manovra lacrime e sangue, la famosa eurotassa, comunque riportò i conti per farci entrare nell'euro. Si ripresenta un pregiudizio o qui invece si analizzano i numeri? No, non credo che si tratti di un pregiudizio, non vedo che motivi avrebbero i tedeschi, avrebbero così solo per pregiudizi nazionalistici di mandare all'aria tutto l'euro. Ma secondo me Mundell ha ragione su una cosa, su un ragionamento ipotetico, cioè che se dovesse succedere qualcosa all'Italia, allora non c'è modo di aiutarla, perché se succede qualcosa all'Italia vuol dire che è successo qualcosa prima alla Spagna e al Portogallo, se stiamo parlando di circa 4.000 miliardi di euro di debito, non c'è nessuno che possa aiutarla. Però dove secondo me sbaglia è pensare che sia tutto così facile. Qui tutti hanno l'idea che gli speculatori possono buttare giù tutto quello che vogliono in 3 giorni, ma si dimentica che la maggior parte del tempo gli speculatori perdono un sacco di soldi. Soros guadagnò 1,5 miliardi di sterline speculando contro l'Italia e la Gran Bretagna nel 92, ma poi se uno legge il suo libro, lui stesso ammette che da allora ha perso una vagonata di soldi speculando. Quindi tutti pensano che gli speculatori possono fare il bello e il cattivo tempo, ma non è così facile. Quadricurzio, d'accordo su questo, che comunque non è facile buttare, andare contro un paese che aderisce all'euro, perché purtroppo l'esempio che citava Perotti, quello dell'Italia e anche quindi della lira e della sterlina, furono effettivamente cacciate dallo SME e Soros ci guadagnò 1,5 miliardi. con l'euro è più difficile, cioè siamo legati... Ma è certamente più difficile, anche perché certamente gli speculatori possono operare, ma possono ovviamente anche perdere, non è così semplice poi mandare a picco un paese. In ogni caso teniamo conto che l'Europa nel suo complesso è un'area monetaria molto forte, anche perché il risparmio interno delle famiglie è consistente, la ricchezza finanziaria è consistente. Nei casi estremi è consistente anche il volume delle riserve auree, 355 milioni di once di riserve auree, molto di più di quelle degli Stati Uniti. Ragion per cui ci sono molti elementi di forza, ivi compresi quelli che potrebbero essere utilizzati in momenti di assoluta necessità. Io non credo che ci arriveremo mai a quei momenti, ma ipotizzando che ci si arrivi, le cartucce che Eurolandia e l'Europa hanno a disposizione sono moltissime. E diciamolo a questo punto, meno male che l'euro c'è, visto che nel passato si è messo in discussione anche questo in maniera un poco lungimirante, solo per guadagnare qualche voto. Meno male che l'euro c'è, siamo tutti d'accordo che il passaggio di euro abbia creato molti problemi al lavoratore dipendente, ma meno male che l'euro c'è. Tra l'altro oggi proprio la banca Albertini Saiut stima che se non ci fosse l'euro la dracma avrebbe perso il 40% esatto, rispetto al marco tedesco, la peseta il 15%, esatto, l'escudo portoghese un 20-25% e anche noi avremmo perso un 10-15%. Comunque grazie a Roberto Perotti, che insegna economia politica alla Bocconi di Milano, e a Alberto Quadrocurzio, che è docente di economia politica alla Cattolica di Milano, nonché preside della facoltà di scienze politiche. Grazie a lei, arrivederla. Grazie, arrivederci. Ultimo tema di questa puntata, la corruzione, la corruzione, la concussione in Italia. Intanto, vabbè, una notizia di cronaca, Camillo Pennisi, arrestato giovedì scorso in flagranza di reato, lo ricorderete, consigliere comunale di Milano, si è dimesso, lo ha fatto mezz'ora fa, 40 minuti fa, dal Consiglio Comunale di Milano, ma non è tanto il caso Pennisi che ci interessa, quanto la relazione della Corte dei Conti di oggi, che ha detto nel 2009 le denunce alla Guardia di Finanza per corruzione sono aumentate del 230%, quelle per concussione del 153%, le pubbliche amministrazioni troppo spesso non attivano i necessari anticorpi interni. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allarme dunque della Corte dei Conti sull'aumento della corruzione e della concussione nel 2009, una notizia appena battuta, tra l'altro il procuratore aggiunto di Roma, Achille Toro, indagato nell'ambito dell'inchiesta per gli appalti G8 alla Maddalena, si è dimesso dall'ordine giudiziario. Ma non è di questo, non è della cronaca giudiziaria né della cronaca politica che vogliamo parlare. C'è una denuncia appunto della Corte dei Conti di un aumento enorme di reati legati alla concussione e alla corruzione nel 2009. Allora, nel salutare intanto Pier Camillo Davigo, giudice alla Corte Suprema di Cassazione, nonché uno dei PM dell'allora pool di Mani Pulite. Buonasera, dottor Davigo. Buonasera a lei. Ascoltiamo che cosa ha detto oggi nella cerimonia di apertura dell'anno giudiziario il presidente della Corte dei Conti, Tullio Lazzaro. Purtroppo è un fenomeno molto diffuso. Nelle statistiche internazionali l'Italia purtroppo da molto tempo figura uno degli ultimi posti nel mondo. Siamo alla pari, se non superiamo appena, solo qualche paese dell'Africa, con tutto il rispetto per l'Africa. È un fenomeno molto preoccupante. La Corte fa parecchio in questo, ma non è che può fare tutto, perché la prima diga ovviamente lì spetta al potere penale e poi alla responsabilità. Che ci sia corruzione purtroppo è vero, ed è un fenomeno gravissimo, perché questo disincentiva gli investimenti esteri. Questo fa sì che sia un ostacolo anche alle nostre esportazioni, perché sui mercati esteri, se bisogna pensare o immaginare magari falsamente che bisogna pagare tangenti, è chiaro che c'è un rifuggire da queste cose, e quindi ci provoca un danno gravissimo. La corruzione oggi è diventato un fenomeno soprattutto di costume. Una volta che si sono perduti i freni inibitori morali, e questo vale credo un po' per tutti gli strati della società, purtroppo il codice penale non basta più, il controllo non basta più, la responsabilità amministrativa non basta più, ci vuole il ritorno a un'etica di comportamento da parte di tutti, che io purtroppo non vedo. Così appunto il procuratore generale della Corte dei Conti, che appunto il presidente, scusatemi, che ha aperto l'anno giudiziario. Devo dire che Lazzaro si è soffermato anche sulle spese inutili nella sanità, nella mala gestione, ha citato i casi delle inefficienze, dei costosi programmi di screening antitumorale in Calabria, l'assistenza odontoiatrica inesistente, il caso delle cosiddette dentiere gratuite nel Lazio, addirittura sconcertanti interventi chirurgici non necessari, e poi il fenomeno delle consulenze che vengono conferite alla pubblica amministrazione e sono ormai incontrollate e incontrollabili, fenomeni vasti che destano allarme. Però, dottor Davigo, a noi ha impressionato, facendo un programma di economia, di finanza, soprattutto il dato sulle denunce di corruzione. Perché, da come la capisco io, se aumentano del 230% nel 2009 le denunce alla Guardia di Finanza e del 150% quelle, i fatti di concussione, può anche essere che ci sia un risveglio, diciamo, di coscienza civile, oppure può essere, e questo ci interessa come parallelo, che con la crisi economica, mettiamola giù molto dura, gli imprenditori abbiano più difficoltà a sottostare alle richieste di pagare tangenti, un po' come secondo alcuni avvenne nel 92, c'era un periodo 92-93, un periodo di forte difficoltà economica, il sistema non reggeva più i costi impropri legali della politica. È d'accordo o no? Credo di sì, perché come ha sottolineato il Presidente della Corte dei Conti, le statistiche relative alla percezione della corruzione elaborate da organizzazioni internazionali collocano l'Italia in una posizione molto molto infelice, il paese il penultimo, insomma, nella graduatoria, quasi il più corrotto dell'Europa occidentale. Non c'è corrispondenza alcuna tra questa posizione e le statistiche giudiziarie, cioè i fatti di corruzione e concussione denunciati, nel senso che sono molto meno quelli denunciati, addirittura ci sono intere zone d'Italia dove praticamente non ci sono mai processi per corruzione ed è difficile pensare che si tratti di isole felici. Allora cosa accade? Semplicemente accade che ne vengono segnalate un po' di più di quante ne vengono segnalate di solito, cioè non c'è un aumento della corruzione, c'è un aumento delle segnalazioni, che è sicuramente un sintomo di cattivo funzionamento del sistema della corruzione. O perché, come ha detto lei, gli imprenditori non reggono più il costo della tangente, o perché, come può accadere in situazioni di insolvenza, temono che le pratiche relative alla creazione di fondi neri, alla distrazione di somme necessarie pur per le tangenti, possano domani essere pesi gravi in caso di dichiarazione di insolvenza e quindi di fallimento. Per cui potremmo anche dire paradossalmente che avere un aumento del 230% delle denunce per corruzione è una buona notizia. Cioè... Sì, è una buona notizia perché vuol dire che ne scopriamo un po' di più, non che ne sono state commesse un po' di più. E anche sulla concussione il 150%? E questo è un discorso ancora più complicato perché vede, in realtà la concussione, tranne l'ipotesi di concussione per costrizione, nella fattispecie normale, quella della concussione per induzione, ha una linea di demarcazione sottilissima rispetto alla corruzione, dipende dal livello di parità o meno fra le parti nella trattativa e quindi risente molto di condizioni soggettive. Certo, l'imprenditore che denuncia non si presenta a denunciare di aver corrotto qualcuno, si presenta a dire di essere stato vittima di una concussione, questo è sempre ovviamente vero che accade, anche se poi alcune volte è davvero un concusso, altre volte forse non lo era. Mentre chi va a denunciare la corruzione, poi ci chiedono gli ascoltatori di ripetere se può, dottor Davigo, il ragionamento, cioè perché uno dovrebbe andare va a denunciare di essere stato corrotto? No, il privato che ha corrisposto denaro a un funzionario pubblico, nella mia esperienza, raramente si presenta a dire certo, ho corrotto qualcuno, si presenta a dire sono stato indotto, sono stato costretto a dare denaro, a prometterlo, cioè si presenta come vittima di concussione. Sia nel caso in cui davvero sia vittima di concussione, sia nel caso in cui abbia deciso di porre fine al gioco, che magari fino a quel momento gli piaceva, gli tornava utile. Quindi potremmo dire che la corruzione viene più scoperta mentre la concussione viene più dichiarata? No, il problema è questo, le une e le altre vengono raramente scoperte, quando poi vengono scoperte non sempre hanno la forma chiara e definita subito, è poi molto difficile riportarle all'una o all'altra delle due figure. Se venisse abolita la figura della concussione per induzione, come del resto ci chiede l'OCSE da tempo, si farebbe probabilmente chiarezza e soprattutto si toglierebbe l'alibi a chi dà denaro a pubblici funzionari di raccontare poi che è stato indotto. Se uno sapesse comunque che non glieli può dare, a meno che certo non sia vittima dell'equivalente di un'estorsione, allora è un altro discorso, ci sarebbe comunque una fascia sanitaria. Ma nella sua esperienza di Mani Pulite, non solo, in realtà è chiaro che, insomma, parliamoci molto chiaramente, non è credibile che uno che sempre funziona al pubblico faccia pressioni e l'altro sia sempre una vittima, anche se come nel caso Pennisi così sembrerebbe. Ma in realtà il motivo per cui a un certo momento l'imprenditore o l'intermediario arriva a dichiarare la concussione, cioè di aver avuto, vuole porre fine a questo gioco, è di solito economico. Cioè, se tu non ce la fai più a pagare, anche fosse i 10.000 euro di Pennisi per un appalto, perché i margini si sono ridotti, è quello che ti porta a dire io sono una vittima, non è solo un accordo, ma sono proprio una vittima? Sì, può essere anche questo. Di solito il discorso è più complicato, nel senso che non è soltanto ciò che gli dà, è anche ciò che riceve o che ritiene di ricevere, perché nel patto corruttivo c'è sempre un interscambio, qualche volta questo interscambio c'è anche nella concussione. Tu mi dai dei soldi ma io ti faccio avere questi vantaggi. Ecco, molte volte l'imprenditore non riceve o non riceve più un vantaggio e quindi non, per esempio quando ci sono vincoli forti alla spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi è difficile fare varianti in corso d'opera, parlo di appalti pubblici, mi riferisco adesso certo. A cose del tutto diverse da quelle che sono all'oggetto della cronaca, ed allora è comprensibile che uno, fatti quattro conti, dica non mi conviene più e non voglia più starci. L'ultima domanda che ho per lei, la domanda forse delle domande, ma veramente abbiamo il presidente della Corte dei Conti ha detto qui si stanno abbassando, non c'è più la resistenza, gli anticorpi morali. Io personalmente diffido sempre di questi catastrofismi, come si stava meglio quando si stava peggio. Voglio dire, non mi sembra che quello che avete scoperto nel 92 fosse così etico, morale, così pieno di anticorpi. Da quello che abbiamo visto, il sistema è andato giù perché, per carità, non c'era più l'Unione Sovietica, ma c'è una crisi economica forte e l'economia non teneva più i costi della politica. Non abbiamo scoperto che, non è che ci sia stato un rigurgito di moralità o tutti fossero più etici, più morali. Lei è convinto che adesso le cose vadano peggio? Non dico che vadano meglio, ma dire che vanno peggio è un'altra cosa. Non so né se vadano meglio né se vadano peggio. Certamente nel 92 ci fu il crollo della spesa della pubblica amministrazione per acquisto di beni e servizi. Ci fu una crisi economica gravissima, l'Italia svalutò, o come disse allora il Presidente del Consiglio dei Ministri, gli altri rivalutarono. E fu davvero una situazione in cui lo Stato rischiava di non essere neanche più in grado di pagare gli stipendi. Probabilmente questa fu la molla principale che fece saltare il sistema, il gioco non era più possibile. Prima ogni anno era possibile costruire una torta un po' più grande in maniera da contentare anche i nuovi competitori che si presentavano sulla scena, poi la difficoltà di tenere fuori i nuovi competitori, specie internazionali, tra le imprese che hanno come cliente prevalente o esclusivo la pubblica amministrazione e la crescita costante delle tangenti, il minor gettito di denaro pubblico che tornava agli imprenditori sotto forma di commesse, ha determinato la crisi del sistema e quindi la possibilità per gli inquirenti di incunearsi. Grazie anche per Camillo Davigo per questa spiegazione del rapporto appunto pubblica amministrazione e imprese, e sempre giocato all'interno, ahimè, della corruzione o della concussione. Grazie anche per Camillo Davigo, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.